quel DPCM è illogico, perché un giocatore che appartiene a uno sport individuale si può allenare nei centri sportivi, un giocatore che appartiene a uno sport di squadra non si può allenare. Troveremo Immobile e Zego a Villa Borghese, troveremo addirittura Insigne nel lungomare di Caracciolo. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Spero che ci fosse un pizzico di ironia da parte del presidente Lotito, perché il tema è un altro. Noi non potevamo riaprire lo sport per tutti. Se fossimo partiti dagli sport di squadra, probabilmente gli sport individuali avrebbero detto: perché siete partiti dagli sport di squadra? Ma lo abbiamo fatto intanto perché ovviamente numericamente parliamo di un numero minore di persone, e soprattutto non abbiamo esteso agli sport di squadra, tra i quali il calcio, perché il protocollo che era stato presentato non è stato ritenuto sufficiente. Io vedo il sentiero per la ripresa del campionato della Serie A sempre più stretto, sinceramente. In questo momento le decisioni che stanno prendendo anche gli altri paesi, come ieri la Francia, ma non credo sarà l'ultima, potrebbero indurre anche l'Italia a seguire una linea che a quel punto diventa anche una linea europea. Ci sarà anche una riunione straordinaria della Lega, potremmo avere una sorpresa, perché secondo me potrebbero essere anche la maggioranza dei presidenti delle società a chiederci di sospendere e di prepararsi invece nel migliore dei modi al nuovo campionato. Al massimo entro questa settimana il comitato tecnico scientifico ci dirà se il protocollo per gli allenamenti è attuabile o meno. Questo ci consentirà nel giro di 3 giorni al massimo di poter dire alla Lega e Serie A se ritiene che può ripartire con gli allenamenti il 18 maggio. Quello che avete appena sentito è il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che ha parlato così, come avete sentito questa mattina a Omnibus sulla 7. La sua posizione è chiarissima: non vede l'ora di chiudere definitivamente la stagione e sta solo aspettando l'assist giusto, seminando il maggior numero di dubbi possibili. Intanto prende il rimbalzo della decisione francese come nemmeno Dennis Rodman. Ciao Pierluigi Pardo e ciao Giovanni Capuano. Ciao ragazzi. La citazione di Rodman è già da applausi. Come tutti sto guardando The Last Dance, ma non c'è nulla che non sapessi già. Dimmi. Sai che cosa mi è venuto in mente ascoltando il ministro Spadafora questa mattina? Che anche noi potremmo avere una sorpresa nei prossimi giorni. E cioè, ad esempio, che si esca da un consiglio dei ministri con una decisione con tutti i ministri d'accordo con quello che hanno deciso 5 minuti prima, visto che lui parla che magari tra qualche giorno dall'assemblea della Lega usciranno club che gli chiederanno in ginocchio di chiudere la stagione. Ma adesso ne parliamo, perché l'interlocutore di oggi è quello giusto. È quello giusto e lo ringrazio tantissimo. Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, Associazione Italiana Calciatori. Ciao Damiano, grazie. Ciao presidente. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Io posso dirti una cosa, sarei addirittura offeso se fossi un calciatore, perché Acerbi come Lotito, Acerbi si domanda perché non può andare a correre, o meglio può andare a correre per trovare il prozio, ma non ad allenarsi da solo in un parco di 24 ettari che si chiama Formello. Spadafora, secondo me, usa degli argomenti che sono, dal mio punto di vista, non so dal tuo, addirittura offensivi. Ma non è come se è così semplice come tutte le situazioni in questo momento. Cioè, prima fra tutti è la responsabilità. Credo che sia anche questa forse il discrimine di tante risposte che riteniamo o pensiamo siano incomprensibili, perché Formello, qualcuno ha la responsabilità su Formello. Quando si dice andare a correre nel parco non si parla di fare un allenamento da professionista. Appunto. Sono tanti discrimini che vengono fatti, il ministro, ma quello che abbiamo chiesto noi ieri è quello che si possa valutare, tornando alla parola responsabilità. Come tutti ci riferiamo ovviamente alla comunità scientifica e al comitato tecnico scientifico del governo, alla commissione scientifica della federazione, che ci sia la possibilità, e questo grazie anche all'opportunità che hanno gli sport individuali di poter accedere alle strutture, anche qui da vedere con quali protocolli, ma di avere l'opportunità anche lo sport di squadra di allenarsi individualmente, che non vuol dire tornare a fare allenamento da calciatore, ma questa risposta ovviamente c'è la premessa di un protocollo comunque di accesso alle strutture, con quali modalità, con quali test e controlli antecedenti, e come ho detto prima, poi ci deve essere, a tutela anche della salute dei giocatori, che ci sia chi si prende la responsabilità di farli allenare in quel luogo, che non è un luogo pubblico ma è a quel punto, insomma, un luogo di proprietà di qualcuno, e soprattutto nel calcio professionistico rispetto ad altri sport c'è anche l'aspetto giuslavoristico, quindi sì, chiaramente. Quello che semplicemente vorremmo capire se c'è questa possibilità, e abbiamo motivato il fatto che se qualcuno magari pensa che non ci sia un senso ad allenarsi da soli nel mondo del calcio, dopo questi mesi di fermo, questi mesi di stop e di allenamento in casa o in spazi ridotti, iniziare progressivamente ad allenarsi su un campo sportivo più grande ovviamente ha il suo valore, però queste sono scelte che devono essere subordinate alla responsabilità da un punto di vista medico, da un punto di vista delle strutture, e quindi noi quello che abbiamo chiesto è che si valuti un protocollo per poter tornare ad allenarsi con queste modalità. Damiano, ma ti ha convinto ieri il ministro? Sappiamo che ti ha telefonato dopo il comunicato in cui definivate illogico e discriminatorio quello che era stato deciso. Ti ha convinto nelle sue motivazioni? Mi ha motivato la scelta, e io ho motivato perché ha un valore comunque l'allenamento individuale anche per gli sport di squadra, ma prima di questo, tant'è che non c'è ancora il protocollo e non mi risulta che non ci siano ancora protocolli per gli sport individuali ad oggi almeno validati, tant'è che noi abbiamo detto prendiamo un protocollo di chi ha gli sport individuali, hanno visto che hanno dato l'ok, e di applicarlo anche a calcio. Questo è un passaggio che si può fare, so con quali tempistiche, serve la volontà ovviamente, e torno a ripetere, anche di chi poi quel centro sportivo deve aprire. Sì, la volontà che mi pare sia il punto mancante a quest'ora, anche non solo Formello, la Lazio, giusto per sgombrare il campo, l'altro giorno anche l'Inter, ti ricordi, per Luigi aveva detto siamo sorpresi del fatto che non ci si possa allenare nel nostro centro sportivo individualmente e con tutte le precauzioni del caso. Questo secondo me è clamoroso, ma questo rientra in una visione. Allora, Damiano ha ragione, nel senso che c'è un tema di responsabilità. È molto più facile fare l'opinionista a tutti i convocati, o piuttosto che fare il ministro della salute o il ministro dello sport o il presidente del consiglio. Questo è indiscutibile. Alcune decisioni, un conto è chiacchierare, è un conto avere la responsabilità delle cose, e ovviamente la salute da questo punto di vista è al primo posto di tutto. Però io credo anche che alcune operazioni potrebbero essere fatte, e quindi, così come non capisco perché in zone del nostro paese dove non ci sono contagi da giorni, o ce n'è uno magari in una RSA, con tutto rispetto per RSA, però in un ambiente chiuso, penso all'Umbria, alla Basilicata, come sia possibile che da lunedì prossimo in queste regioni qui ci sia lo stesso tipo di regime che c'è in luoghi dove invece ci sono 800-900 persone che si infettano al giorno, purtroppo. Ecco, questo mi sembra una forma di poca flessibilità. Allo stesso modo mi sembra che sul tema dello sport, dove chiaramente il tempo dell'allenamento è fondamentale se vuoi ipotizzare una ripresa, perché non puoi pensare che dici va bene, ricominci a lavorare il giorno dopo, cioè non è un'azienda manifatturiera. No, ma è chiaro. Lunedì apri e martedì è pronto il manufatto, o quando sarà. Ci sono dei tempi tecnici di riscaldamento e di preparazione. E da questo punto di vista, secondo me, un pochino più di flessibilità ci vorrebbe. Con ma ti dico rispetto di più, ribalto la posizione e la giro a Damiano, la tutela della salute degli sportivi professionisti si persegue anche consentendoli di allenarsi con le modalità necessarie e in sicurezza, perché io credo che hai fatto, ovviamente, e tutti lo sanno, il giocatore al massimo livello possibile. Credo che star fermi lì per così tanto tempo sia nocivo per la loro salute, non solo professionale. Ma quello che abbiamo detto, ma riguardo alle responsabilità, non ci sono solo quelle, ci sono anche quelle, come ho detto, in ambito lavoristico, del datore di lavoro rispetto ai dipendenti, che voi penso conoscete molto bene. Quindi ci sono tutta una serie di catene che si devono unire, e che poi ci sono giocatori che vorrebbero tornare subito in campo, giocatori che vorrebbero avere la certezza maggiore, giocatori ovviamente tutti vorrebbero tornare a giocare, tutti vorrebbero tornare a prepararsi, ma tutti concordano che per tornare a lavorare bisogna avere una progressione. Quindi l'apertura agli sport individuali ha sollecitato e anche ci sollecita noi a dire affrontiamo un protocollo per gli allenamenti individuali per gli sport di squadra, sempre che ci sia, perché purtroppo quello che abbiamo sentito è quella, secondo noi, secondo me è la sorpresa anche più grande, è che il protocollo per gli allenamenti dal 18 non è ancora stato validato, quindi ecco, io si dovrebbe preparare Damiano, cioè... ad un'attività che ad oggi non sarebbe neanche autorizzata, quindi prima dobbiamo mettere a punto quello e mettere a punto, come ho detto, un protocollo in sicurezza per lunedì, e per lunedì o per quando ci sarà la possibilità di averlo, e tornando alla volontà, sempre che ci sia la volontà da parte di tutti, perché come sappiamo ci sono anche, insomma, società o presidenti che non se la sentono di prendere la responsabilità, io parlo di buona fede su tutti, e quindi che non se la sentono, che sono in zone d'Italia dove probabilmente il tema è anzi certamente è più sentito, poi sul tema in Umbria pochi casi e in altre regioni tanti casi, credo che sia però un discorso molto più ampio, insomma. Certo. Probabilmente no, in Umbria sono pochi casi perché abbiamo applicato delle norme, se aspettiamo che ci siano tanti casi per applicare le norme, penso che sia il contrario. Damiano Tomasi ci sta dando due notizie, perdonatemi. Sì. La prima è che mi pare che ha usato una sorta di condizionale parlando se si riesce a fare per lunedì, si intende questo, o per il 18, quindi vorrei capire da lui se ha percepito che esiste ancora un ragionamento aperto. E la seconda, che tra gli oppositori alla ripartenza, ma con argomenti solidi, giuslavoristici, come li ha definiti correttamente lui, c'è anche più di una società, al di là del dibattito su a chi convenga o no fermarsi. Aggiungiamo anche la domanda di Pierluigi Pardo, notando che a me sembra che l'ultima decisione di Lega fosse all'unanimità convinti di riprendere. Però questo, vabbè, Pierluigi, aggiungi la tua considerazione. Volevo chiedere a Damiano è, al di là di tutto, se lui non ha la sensazione che io ho in certi momenti, che ci sia però nei confronti del mondo del calcio così un po' di... non voglio dire di snobismo o comunque insomma di sottovalutazione del fenomeno, cioè io credo che nessuno voglia e nessun presidente voglia che un proprio giocatore rischi nemmeno un'unghia di un piede, quindi cioè quello è un presupposto, io do per scontato, cioè se non ci saranno le condizioni per cominciare a fare le partite anche a porte chiuse, ma è giusto che non si giochi, ma ci mancherebbe altro, però siccome da qui al giorno in cui si può ripotizzare una partenza deve passare un mese, gli strumenti, gli scenari, questi dovranno essere messi in piedi, altrimenti, e invece ho la sensazione che ci sia da parte di una certa parte della politica un approccio così, come se il calcio fosse appunto un divertimento, il superfluo necessario, come dici tu, è una roba che poi alla fine è semplicemente un giochetto, che possiamo parlare di calcio in un momento come questo, con 300 morti al giorno. Certo, questa è demagogia. Tra un mese ci auguriamo che, prima di tutto, che non ci siano 300 morti al giorno, e secondo, che l'economia vada avanti e che la vita riprenda. Certo. E allora per riprendere ci vuole che Immobile e Dzeko si allenino, cioè, in sicurezza, ma occorre che si allenino, altrimenti per un mese non riprende niente. Allora, Damiano, tre considerazioni, le prime due, lunedì quale? Questo o quello successivo, o il 18? E poi club che non vuole ripartire, più di uno, quanti sono? Perché rimane quella presa di posizione non è iniziata da parte della Lega, e poi questo forma di snobismo, e condivido la considerazione di Pardo, perché si continua a mettere nella stessa frase il giocatore professionista e il dilettante, i centri danza e le palestre. Prego. Ma sotto domanda intendevo le situazioni ad oggi sono il protocollo per il 18 che non è ancora stato validato e che deve essere rivisto, probabilmente non so in quali punti e con quali criticità, e su questo personalmente siamo anche preoccupati, nel senso che se non è pronto quel protocollo diventa difficile immaginare che si possa tornare il 18 a fare allenamenti di squadra. Quello che abbiamo chiesto, e che c'è stato su questo anche l'apertura, ma il nostro componente della commissione medica della federazione, il dottor Della Fera, si sta adoperando per far questo, vedere la possibilità di studiare un protocollo che non era stato previsto, partendo prendendo spunto dagli sport individuali, un protocollo per l'allenamento individualizzato sugli sport di squadra. E questo, stante l'attuale decreto, non sarebbe possibile da lunedì comunque, perché è chiaro il decreto che parla solo di sport individuali, ma se si trovasse un protocollo di poter tornare a fare un allenamento individuale anche per gli sport di squadra, probabilmente si applicherebbe anche al nostro sport già da lunedì, ripeto, visto che da lunedì, stante l'attuale decreto, si potrà partire. Quella del lunedì 18 ovviamente è un'incognita che per noi sembrava o ci si aspettava che fosse approvato e validato dal Ministero, sempre partendo da quelle due paroline che a volte si dicono senza pensarci, ma è insicurezza, quindi quella è il punto focale. Speriamo che questo venga validato e quindi ci dia la possibilità poi di arrivare al 18 con più voglia ancora di riprendere. Sul quante squadre non hanno la volontà di prendersi delle responsabilità sul centro sportivo, sulle loro strutture, sapete che più di una società di Serie A non ha la struttura propria, quindi altre non hanno gli spazi, altre non hanno la condizione alberghiera per fare quello che è previsto dal protocollo 18, quindi sicuramente anche questo è un punto interrogativo. Purtroppo, come in tutte le situazioni, c'è chi ci marcia su una situazione e quindi utilizza e strumentalizza alcune situazioni, e noi ci dobbiamo preoccupare soprattutto di quei punti che ho detto prima: la sicurezza dell'allenamento, la validità di fare un allenamento individuale su un campo sportivo che ha un suo perché, soprattutto dopo un periodo come quello che abbiamo attraversato, e quindi la sensazione che poi quello che dice Pierluigi sulla sensazione che il calcio sia visto in un certo modo, che sia antipatico ad altri sport, che sia preso di mira, perché queste sono considerazioni che valgono tutto il periodo dell'anno, però noi che dobbiamo lavorare per fare le scelte all'interno del nostro mondo, dobbiamo concentrarci sui fatti e su quella che è la realtà. Oggi il calcio è comunque uno sport che ha un valore anche di indotto che non è indifferente, e ha dei numeri e soprattutto delle pagine di giornale, degli spazi televisivi, radiofonici, che non ha nessun'altra attività sportiva in Italia, e quindi ha un'analisi più approfondita di qualsiasi frase si dica, di qualsiasi opinione si dica, quindi è ovvio che in questo ci si inserisca anche chi ce l'ha col calcio, chi non vede l'ora che si parli d'altro, quindi però fa parte insomma, siete voi della comunicazione, capite come funziona. Noi dobbiamo solo capire, ed ecco, l'apertura che è stata fatta sugli sport individuali, che il ministro ha motivato sul numero di persone che muovono rispetto agli sport di squadra, abbiamo chiesto che venga presa in considerazione l'ipotesi di aprire un protocollo per l'allenamento individuale degli sport anche di squadra. Poi se noi dobbiamo fare un allenamento individuale in un campo sportivo e non ci sono spazi sufficienti, ovviamente si faranno scaglionamenti e tutte quelle cose che dovranno essere eventualmente previste in un protocollo. Estremo buon senso. Giovanni, prego. Ma guarda, io volevo chiedere questa cosa. Oggi il ministro Spadafora non ha risposto a questa domanda. Allora, noi abbiamo capito, volevo quindi capire cosa ne pensa Damiano Tommasi. Noi abbiamo capito, ci è stato spiegato che dovremo convivere per mesi, tanti mesi, con la presenza del virus, e quindi questo sarà anche a settembre, a ottobre, a novembre. Chiedo a Damiano Tommasi, non c'è il rischio, e anche oltre forse, non c'è il rischio di inseguire il mito del rischio zero, cioè l'attività sportiva, calcio, ripartirà solo quando il rischio sarà zero, la massima sicurezza, mentre in realtà nel 100% di tutte le altre attività si ragiona sulla massima sicurezza possibile, e quindi c'è un limite e un rischio che bisogna essere disposti ad assumersi. Io volevo capire da Damiano Tommasi qual è la posizione dei calciatori, cioè se esiste questo rischio che si è disponibile ad assumersi, perché altrimenti è chiaro che il calcio non ripartirà mai, perché non ci sarà mai un calcio d'angolo che potrà essere battuto, una barriera che potrà essere formata a rischio zero finché non c'è il vaccino, ma vale anche per settembre-ottobre. Quello che se avete seguito un po' sta succedendo in Germania e che a volte si enfatizza forse correndo troppo, ma che si stanno già allenando col distanziamento, comunque con determinate precauzioni, lo stanno facendo perché il livello di rischio in Germania, almeno fino alla settimana scorsa, fin quando è stato autorizzato questo tipo di allenamento, quindi credo anche oggi, era sotto un certo livello, cosa che in Italia, perlomeno sicuramente in Lombardia, ma in Italia diciamo, Non c'è ancora questo abbassamento del rischio. Non stanno giocando in Germania, cioè l'abbassamento del rischio ti consente di fare gradualmente quello che si sta cercando di fare in Italia, gradualmente delle cose che sono ovviamente a seconda, qui ci rimettiamo alle scelte, cioè alle scelte, alle responsabilità del comitato scientifico, del governo in questo caso, comunque della comunità scientifica. Il rischio zero non ci sarà, o meglio, ci viene detto che non ci sarà. Qual è il rischio calcolato per il quale si possa o si debba ripartire? Ovviamente non sta a noi dirlo, ma sicuramente ci sarà la possibilità di valutarlo. Ma al di là della salute dei giocatori, il rischio calcolato se lo deve prendere anche chi mette in campo i giocatori, quindi non è una scelta o una opposizione unilaterale eventuale di chi va in campo, perché poi sappiamo tutti, insomma, c'è gente che fuma, c'è gente che il suo rischio personale se lo prende e se lo assume, però cioè, quindi i calciatori sono disponibili a fare calcio anche se, anche prima che sparisca il virus, per intenderci, perché questo è un punto che non è passato nella testa di tante persone. Bisogna vedere cosa significa fare calcio prima che sparisca il virus. Noi ci rimettiamo alla comunità scientifica, sicuramente penso come tutti, ogni mattina dobbiamo anche valutare perché quali sono i rischi e quali sono i rischi che ci possiamo prendere. Sappiamo che il calcio, a differenza di altre aziende, non è per aziende indipendenti una dall'altra, ma se partono devono partire tutte, se si gioca devono giocare tutti, e quindi questo deve essere una scelta condivisa. Ma questo, ripeto, dobbiamo riferirci sempre alla comunità scientifica, secondo me, in questo momento, perché è la cosa più importante. Poi l'orizzonte temporale sul quale dobbiamo ragionare, ovviamente oggi siamo tra virgolette a correre, perché vorremmo riuscire a finire la stagione scorsa, anzi quella attuale, e il tempo ovviamente più si va avanti e meno ne abbiamo, ma l'orizzonte temporale che ci ha insegnato, penso, in queste settimane questa epidemia è che è un elastico che si allunga e spesso è solo la nostra speranza ad accorciarlo, quindi sì, dobbiamo fare i conti anche con la tanto realtà. Alcuni punti sono stati messi dall'UEFA 25 per comunicare le disponibilità e poi la fine di giugno per terminare fine di luglio per terminare la stagione. Io ringrazio Damiano Tommasi, grazie. Ciao, presidente. Ciao. Per continuare il discorso di Damiano, ad oggi la comunità scientifica, con tutte le incertezze e tutti i punti interrogativi che ci sono su questo virus, ci fa capire che da un certo punto di vista è molto più probabile che il virus possa lasciare libero il periodo di giugno-luglio per motivi climatici e comunque anche di onda, no, di flusso, di picchi e di valli della diffusione del virus, e poi magari rifarsi vivo nel periodo invernale dell'anno prossimo. Chiaramente siamo nell'ambito delle ipotesi, perché sì, non ci sono conferme da questo punto di vista, però è una possibilità, ed è una possibilità abbastanza concreta, perché molti virus respiratori durante l'estate diventano più morbidi. Okay. Quindi alla luce di questo principio, se dovessimo puntare su questa possibilità, converrebbe finire la stagione durante l'estate, perché poi e comunque sia tu il rischio della prossima stagione lo dovresti correre. Sì, poi nel frattempo la scienza speriamo che possa portare, se non un vaccino, almeno delle soluzioni farmacologiche che possano rendere il virus molto meno pericoloso. Cioè, è chiaro che l'ambito e la gamma delle possibilità è talmente vasta e siamo di fronte a qualcosa di completamente inesplorato, per cui io da questo punto di vista non, la parola chiave è incertezza. Un po' per cultura, sai, un po' per cultura mia, insomma, poi dammi del democristiano quello che ti pare, però cioè io non me la sento di puntare l'indice più di tanto, perché è un casino, perché è complicatissimo, io lo capisco benissimo. Ma questo siamo d'accordo, quello, a patto che non che ci venga irrita, quello che mi irrita è quello che tu sai bene, cioè è l'idea che se uno prova a disegnare gli scenari per il mondo del calcio, delle ripartenze che ovviamente hanno dei presupposti minimi, cioè il fatto che questi ragazzi devono cominciare tutta sicurezza a fare sport e a è quello che certo stai modo. Zitto tu che ci sono in giro un sacco di persone che muoiono, questo da fastidio da morire anche a me. Pier, salutiamo e facciamo gli auguri a Ciro Ferrara. Siete d'accordo? Tutti i giorni. Beh, so a nonno Ciro. Ciao Ciro. È bello festeggiare i compleanni. Ciao Ciro, bello festeggiare i compleanni. Questo è, insomma, bello tosto, quello del 90, non è il tuo compleanno anagrafico, ma è il tuo compleanno calcistico. Scusa, adesso io con tutto il rispetto, ovviamente, perché adesso parliamo dei 30 anni dello scudetto del Napoli, che è una pagina meravigliosa della storia della città e del calcio italiano, perché insomma lo scudetto che va a Napoli anche dal punto di vista geopolitico, sociologico, culturale, ha un valore, una letterarietà enorme, però partiamo dal, perché è diventato nonno Ciro 24 ore fa, 36 ore fa. No, vabbè. E ma partiamo da lì. Ne potevamo parlare anche dopo, cioè, questo fatto che io adesso tutti quanti ma dai, che sei emozionato come no, un nonno, sei emozionato. Assolutamente, assolutamente, hai detto bene Pierro, ho vissuto delle emozioni in un periodo tra l'altro disastroso per tutti, però sto vivendo delle emozioni fortissime in questi ultimi giorni e ieri sì, sono diventato nonno di un bimbo bellissimo che purtroppo ho potuto vedere soltanto per pochissimi minuti perché poi ho dovuto ovviamente lasciare la clinica, però insomma sì, sono nonno di un bellissimo bambino e sono emozionato, ma anche mentre parlo, guarda. Come si chiama? Forse Leone, un nome tra l'altro impegnativo, cioè, voglio dire, deve avere due spalle belle grosse per portare questo nome, però insomma mia figlia sta bene, il bimbo stanno benissimo e quindi stanno tutti e due molto bene e noi siamo felicissimi di essere diventati nonni, che sono nonno 53enne, però non mai mi sarei aspettato. Ecco, precisiamo l'età. Hai fatto presto. Senti Ciro. Adesso torniamo a quello che è lo scudetto del 90, perché in quella circostanza, dopo una cavalcata bellissima, però noi in quella partita scendiamo in campo tra l'altro con i nostri figli e io porto in campo mia figlia Benedetta, che era nata praticamente da un mese. A distanza di 30 anni rivivo delle emozioni fortissime, intanto di ricordare con affetto quel momento dello scudetto, ma ovviamente lei che era al suo debutto al San Paolo mi regala questa gioia proprio ieri, quindi insomma le due cose si avvicinano. Tutto torna. Esatto. Senti, se ti dico, io sto vicino a te, non so se l'ho detto bene. Io sto vicino a te, l'altra cosa che mi ha portato grandissime emozioni e gioie, perché insieme a Fabio Cannavaro e a Paolo Cannavaro abbiamo una nostra fondazione. In effetti poi non ci siamo inventati nulla di nuovo, perché abbiamo pensato, abbiamo una fondazione che opera soprattutto a Napoli e abbiamo pensato a come aiutare in questa situazione di emergenza la nostra città, il nostro popolo, e quello che ci siamo resi conto è che oggi la gente fa difficoltà a mettere il piatto a tavola e quindi niente, siamo inventati questa asta solidale, abbiamo pensato di mettere all'asta, di donare alla Fondazione Cannavaro Ferrara le nostre maglie che poi sono state messe all'asta, e ognuno però, la particolarità sta in questo, che ognuno di noi ha regalato una maglietta rappresentativa, significativa dei nostri percorsi, e poi il fatto di aver coinvolto tantissimi ragazzi napoletani o comunque campani, indipendentemente dal fatto se abbiano giocato o meno nel Napoli, questo non aveva importanza per noi. E tutti ci hanno risposto alla grande, da Insigne a Immobile, a Borriello, a Quagliarella, a Palladino, a Nocerino, a Montella, a Mirante, adesso Donnarumma, insomma, di Natale, ci sono tantissimi nomi, sicuramente ne dimentico qualcuno, però ognuno di loro ha voluto mettere all'asta una propria maglia rappresentativa del proprio percorso e tutto ciò poi è servito a far sì che l'incasso, che è tra l'altro intorno ai 100.000 euro, sia devoluto all'acquisto di beni di prima necessità per le famiglie napoletane. Questa è stata un'altra gioia indescrivibile, credo che in questi giorni cominceremo a fare la spesa perché abbiamo chiuso l'asta. Tra l'altro tengo a dire che non soltanto ragazzi nati a Napoli, ma anche giocatori che per esempio Mertens, tra l'altro la maglia di Mertens è andata all'asta e l'ha comprata De Laurentiis, quindi l'ho comprata io caro Ciro, e poi questo se non è affetto questo no, allora la formazione era Giuliani, Ferrara, Mancini. Dimmi, no, Ciro. Dicevo, Presidente, le volevo chiedere a che punto sta il contratto di Mertens a questo punto. Ma ti leggo la formazione, di Napoli, questo non lo so. Giuliani, Ferrara, Francini, Crippa, Lemao, Baroni, Corradini, De Napoli, Careca, Maradona, Carnevale. Questa qua era Non male, tra l'altro in un anno difficile, Pier, perché va detto che l'inizio non fu dei migliori, nel senso come prospettive, perché Diego ritardò un po' il suo arrivo a Napoli. Però poi è arrivato. Ma la verità è che comunque in quel periodo lì, proprio nelle prime cinque partite che Diego mancò, noi riuscimmo ad ottenere 5 vittorie, insomma, poi facemmo 12-13 risultati consecutivi. Non ricordo bene perché ormai sono nonno e quindi ci sta. Però fu una cavalcata bellissima. Insomma, perché... Credo il Napoli più forte di tutti i tempi. Non credo di sbagliarmi. Sì, ciao ragazzi, vi devo salutare perché ho la borsa e sono in ritardo e chiedo scusa. Saluto e faccio un milione di miliardi di auguri a Ciro Ferrara per tutto quanto. Grazie. E gli sto vicino a te sempre. Pierluigi Pardo, grazie. Giovanni Capuano, grazie. Ciao. Ci ritroviamo domani. Borsa, torniamo. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. Io sarei un folle a demonizzare il calcio, perché vuol dire che l'anno prossimo non ci sarebbero le risorse per finanziare tutte le altre discipline sportive. Io da ministro dovrei rispondere di questa cosa gravissima. Però non bisogna avere questa fretta della data sui campionati, è impossibile. Al di là della nostra posizione classifica, la mia posizione è sempre stata quella di evitare un danno grave e irreparabile al sistema che è inteso anche, torna soprattutto ai nostri tifosi, soprattutto al sistema calcio in quanto tale. L'Inghilterra, è vero che non si sono ancora fermati come la Germania, ma stanno anche pensando a dei piani B. L'Inghilterra, il governo ha proposto per esempio che se si riprenderà il campionato le partite vadano in chiaro. Qui quando io ci ho provato, collega di Serie A e Sky, diciamo, sappiamo quello che è successo. Oggi si sta pensando da parte di alcuni soltanto alla questione, diciamo, economica e a salvare alcune società che oggettivamente sarebbero in difficoltà. Beh, allora, se non si ricomincia a giocare non ci sono soldi per tutti, quindi muore Sansone con tutti i filistei, per tutti gli altri sport. Le partite in chiaro, ma mi sembra un problema residuale, dibattuto, trattato e risolto in senso negativo. Quello, questa era sempre Spada Fuori, quello in mezzo era Lotito. Marco Berinazzo, Sole 24 Ore, buongiorno. Eccomi, ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao, senti, oggi scrivi su Sole 24 Ore un pezzo che dovrebbe preoccupare più di uno, no? Per quanto riguarda quell'aspetto, non ci sarebbero tutti i soldi per finanziare non solo gli altri sport ma anche i club calcistici. Oggi in prima pagina su Sole 24 Ore, sport, quasi 50.000 società sul filo della bancarotta. Qual è la situazione? La situazione è che esiste un filo molto chiaro che unisce il calcio di vertice allo sport che pratichiamo nelle palestre, nelle piscine dove portiamo i nostri figli. Questa filiera dello sport che parte appunto dai soldi di imposte, di tasse che il mondo del calcio, in particolare quello professionistico, versa allo Stato ogni anno, più di 2,2 miliardi, e un terzo di questi soldi sono quelli che tornano a finanziare attraverso il CONI, attraverso Sport e Salute adesso, tutta la filiera sportiva italiana. Quindi è evidente che un danno al vertice di questa filiera provocherà un danno anche alla base, e soprattutto esiste un mondo molto variegato che va appunto dalla Serie A di basket, al calcio dilettantistico, al volley, a tutte le società sportive, diciamo delle discipline sportive praticate in Italia, che sono oltre 220.000 e coprono 12 milioni di tesserati a vario titolo. ebbene tutto questo mondo dovrà fare a meno dell'unica risorsa che lo tiene in vita finora, cioè le sponsorizzazioni che vengono da chi è proprietario o comunque da chi è vicino sul territorio a queste realtà. Perché tantissime aziende che hanno sostenuto con un'ottica assolutamente mecenatistica questi club dovranno fare una scelta nei prossimi mesi, cioè se mandare in cassa integrazione o licenziare i propri operai oppure continuare a foraggiare lo sport. Ed è evidentemente una scelta etica, ma anche economica, ma anche legale, perché se tieni i finanziamenti pubblici della cassa integrazione poi difficilmente puoi giustificare in qualche modo di finanziare attraverso una sponsorizzazione la squadra, certo, appunto di volley o di basket, o di pallamano, di pallanuoto sul territorio, e a quel punto viene meno appunto l'ossigeno per queste realtà. Se non si farà nulla rischia almeno il 20% di queste realtà di sparire, del numero appunto impressionante che abbiamo indicato stamattina. Quello che si può fare cos'è, Marco? Guarda, esiste un provvedimento che è stato proposto attraverso la Lega Pro e la Federazione al Governo, quello della sponsorizzazioni 4.0, questo modello di altre sponsorizzazioni, di altri incentivi a questo tipo di promozione delle aziende, permette di ottenere un credito d'imposta del 30% a salire. Praticamente l'azienda che sponsorizza può utilizzare questa somma, il 30% di questa somma, in compensazione con le altre imposte, quindi anche se è in perdita, e quindi alleggerire molto il carico. Tra l'altro, se usi le promozioni in carattere digitale o data di PMI, startup, quindi quelle piccole imprese sul territorio, puoi addirittura arrivare quasi al 50%. Questa normativa era stata presa molto volentieri in carico, insomma, dal governo per approvarla. Forse adesso c'è qualche difficoltà di copertura, ma sarebbe un grandissimo intervento per tutto il mondo dello sport italiano, che è un patrimonio di tutti e tutti dobbiamo difendere. Non stiamo difendendo in questo modo, come dire, dei soggetti privilegiati, ma stiamo privilegiando noi la tutela dello sport. Sì, sì, in attesa di risposta di una delle tante risposte che ancora non sono state date a questo provvedimento. E invece altro fronte, quello televisivo, perché è vero che la Francia ha chiuso i battenti, è vero che ad esempio il Paris Saint-Germain perderà oltre 200 milioni, Marsiglia 100, eccetera eccetera, e vediamo quanti riusciranno a sopravvivere, che sembra il film Highlander. Spadafora torna su un suo cavallo di battaglia, cioè se mai giocheranno e glielo consentirò, dovrebbe essere in chiaro come in Inghilterra. Non mi sembra sia questo il punto centrale, però la grande guerra tra club e TV esiste, perché i club hanno e continuano a esigere, e non siamo lontani dal primo maggio, anzi è dopodomani, data termine del pagamento dell'ultima rata dei diritti televisivi da parte dei soggetti interessati, Sky, DAZN e quant'altro. Provo a dire prima due cose su quello che ha detto Spadafora, proviamo a chiarire noi. Innanzitutto non è vero che non c'è un problema di date, il problema di date c'è, sì, perché se la Serie A non riparte tra il 13 e il 14 giugno, quindi non torna ad allenarsi almeno un mese prima, considerando che esiste una norma che impone di giocare non prima di 72 ore partita per partita, ecco, non si riuscirà a rispettare la data che invece l'ha fissata la UEFA del 2 agosto per il termine, certo, del torneo. Certo. Quindi è chiaro, esiste che un problema di date. Se vai oltre quelle date, diciamo, indicate di metà maggio per vendere gli allenamenti, è inutile stare qui a parlare. Altra cosa, se in Premier vedono le partite in chiaro, il governo ha proposto di far vedere le partite in chiaro, è perché in Premier sono vendute alle PTV solo partite che riguardano un terzo del campionato, non ad esempio quello del sabato pomeriggio. Boris Johnson vorrebbe che fossero trasmesse in chiaro per evitare, diciamo, assembramenti nei bar, sì, o nei pub, forse, sì, si giocherà a porte chiuse. Addirittura i club della Premier, che comunque guadagnano tre volte quello che guadagna l'Italia, stanno anche pensando di fare business, perché a questo punto possono vendere quei pacchetti che normalmente non vendono, sì, e quindi, diciamo, limitare i danni dall'accesso, certo, allo stadio, certo, mancato. Detto questo, in Italia invece abbiamo una situazione per cui paradossalmente il nostro contatto, il contratto diritti TV, era più blindato di quello tedesco e di quello inglese, dove Sky invece ha ottenuto uno sconto sulla prossima stagione, per cui i club italiani che hanno bisogno di quei soldi per fare casse, per, come dire, pagare gli ingaggi per quello che non è stato tagliato, comunque far fronte a tutti gli impegni finanziari che hanno, e hanno chiesto invece che venga pagato tutto integralmente sia quest'anno che il prossimo. È evidente che si potrebbe finire in un contenzioso legale, ma la cosa più preoccupante è che con quegli stessi soggetti con cui la Lega in questo momento sta litigando, cioè Sky, DAZN e MG, è molto probabile che la Lega dovrà sedersi a trattare per il prossimo triennio 2021-2024. Difficilmente, di fronte a questo irrigidimento, questi soggetti potranno, come dire, acconsentire a quelle richieste molto alte che arrivano dai presidenti di Serie A, e quindi il ridimensionamento potrebbe essere solo spostato in avanti, a meno che non arrivi un cavaliere bianco tipo Amazon, che però si è guardato bene prima di venire in Italia e si è diretto piuttosto in Inghilterra e Germania, dove ci sono campionati più ricchi e competitivi. Certo, grazie Marco. Grazie. Ci sentiremo ovviamente molto presto, perché tutto, anche questo fronte è caldissimo ed è in divenire. Traffico, torniamo subito. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Per fortuna in questo periodo ci sono, li stiamo festeggiando tutti, ricorrenza, anniversari, compleanni. Allora abbiamo fatto Beccalossi l'altro giorno sullo scudetto dell'Inter dell'80, Moratti ieri quando era l'anniversario di Barcellona-Inter, partita chiave per la Champions e triplete, e oggi Ciro Ferrara che non solo festeggia l'anniversario dello scudetto del 90 ma addirittura è diventato nonno. Stefano Morocco ancora no, mi risulta. Ciao Stefano. No, non ancora, il ragazzo ha 10 anni, è molto prematuro per certi versi, ma non esageriamo. E allora accontentiamoci festeggiando quello che una volta tutti chiamavamo Andreino, Agassi, che ne fa 50. Beh, questo vuol dire che veramente possiamo invecchiare tutti, perché Agassi era già molto forte a 16-17 anni, per cui il fatto che anche lui sia arrivato a 50 anni, nonostante tutto, ci rincuora, insomma, Carlo. Però grande personaggio, cioè un innovatore del tennis. Guarda, ti dico che Agassi è stato per il tennis quello che Alberto Tomba è stato per lo sci. Ti regalo questa perla di saggezza. Sì, cioè uno, parlo proprio di tecnica, oltre che del personaggio, però il modo di Agassi di giocare a tennis, quel suo modo di giocare a ping pong, ha stabilito un prima Agassi e un post Agassi, esattamente come Alberto Tomba ha stabilito un modo di sciare nuovo, per cui c'era una sciata prima di Tomba e una sciata dopo Tomba. Sì, sì, sì. Ma io mi ricordo una definizione di Agassi, non so chi la diede, vedere Agassi giocare è come quel suo rovescio, poi tu sei il professore, però quel suo rovescio è come vedere un coltello a serramanico che si apre, lo scatto di un coltello a serramanico. Il grande bisteccone Galeazzi mi pare che lo soprannominò Flipper Agassi, no? Allora lui aveva questa caratteristica, cioè giocare a tennis frontale, cioè da Agassi in poi ovviamente insomma c'è qualcuno che lo faceva anche prima e qualcuno anche dopo, però Agassi è il primo che colpisce la palla frontalmente rispetto alla rete e che la colpisce soprattutto di controbalzo, cioè non fa rimbalzare la palla, sì, ma gioca tutto anticipato, per cui fa un passo avanti dentro il campo. È un tennis che oggi giocano tutti quanti, ma che al tempo meravigliò il mondo, perché Paolino Canelo ha raccontato in un'intervista adesso, sì, lo ha beccato in campo e praticamente non gliel'ha fatta mai vedere, perché dice questo tirava di qua e di là, io non facevo in tempo a capire dove tirasse, perché lui colpiva la palla mentre ancora saliva, era uno dei pochi a farlo. Senti, siamo in epoca di rivisitazioni letterarie, tutti ci stiamo guardando più e più volte e ovviamente tarate Last Dance, il documentario sull'epopea dei Bulls di Michael Jordan. Ecco, anche dal punto di vista letterario Agassi è un personaggio che va oltre e sopra le righe. Qual è il tuo primo ricordo di questo giocatore? Il primo ricordo di Agassi è di un Agassi giovanissimo, proprio quello vero, cioè quello che abbiamo tutti nella memoria, quello con gli scaldamuscoli, sì, che fu il primo, quello con le scarpe bianche e gialle, quello con i capelli lunghi che poi abbiamo scoperto che per un periodo furono un toupé, battere un Claudio Panatta a Roma, al Foro Italico, di notte. Cioè io mi ricordo che ero tifoso di Adriano, perciò diventai tifoso di Claudio per interposta persona, sì, e una notte nel Foro Italico andammo a vedere questo ragazzino americano di cui tutti dicevano un gran bene, come si dice in questi casi, che tipo gli fece fare 2 game in 40 minuti. Quello è il primissimo ricordo. Ma aveva già i pantaloncini di jeans, non ancora? però era già molto bello variopinto, cioè, sì, era già, adesso non mi ricordo se avesse già gli scaldamuscoli, però credimi, era uno che insomma si faceva molto molto notare dall'inizio. Poi adesso è diventato un mecenate, costruisce scuole per bambini disagiati, cioè una storia veramente meravigliosa, anche letteraria. Sì, molto letteraria, tanto che ha scritto uno dei libri di maggiore successo nel panorama della letteratura sportiva italiana, a parte quelli che hai scritto tu, no Stefano? Questo, certo, quell'open... Sì. Beh, è un libro, intanto è un libro di tennis che non è un libro di tennis, perché è un meraviglioso romanzo di costume e società. E senti, poi posso chiederti una cosa, una mia curiosità? Sì. Conoscendo tutto e ogni piega della storia tennistica di tutti i più grandi tennisti, tu, sì, c'è qualcosa la cosa che più ti è rimasto impressa in quel libro, quella che hai scoperto allora e quella che hai detto, questa proprio non me l'aspettavo? Guarda, banalmente, ma molto banalmente, ti dirò quanto importanti siano state le donne per Agassi, perché a partire da Brooke Shields, lui, insomma, questo libro è intercalato dai suoi amori, da quelli giovanili fino a Steffi Graf. Capito, tu sei sempre abituato a vedere il tennista come un personaggio unico, no? Cioè, singolare, uno che sta da solo, uno che gioca da solo, uno che è contro tutti e contro tutto. E vedere che lui si appoggia così tanto alla sua prima fidanzata, alla sua seconda fidanzata, e che poi prende questa sbornia pazzesca per Steffi Graf, che lo fa impazzire, e alla fine riesce a uscirci tramite lo stratagemma organizzato da John McEnroe, insomma una storia veramente molto bella, legata non al tennis ma alle donne della sua vita. Mi stavi dicendo, per quanto al resto, stavi dicendo qualcos'altro? Insomma, poi ripeto, il libro non l'ha scritto lui, ma lui lo ha raccontato a Möhringer, che è un premio Pulitzer, il bar delle grandi speranze, mi pare si chiami, il libro più importante di Möhringer, per cui ha scritto in maniera meravigliosa. È un libro che se rileggi quattro volte ci trovi quattro volte cose diverse che non ti ricordavi di aver letto prima, però la storia della macchina sparapalle, quella è notevole, insomma, il papà che gli costruisce questo mostro e lui che arriva a un certo punto a odiare il tennis, poi lo ama, poi si disinnamora e poi se ne reinnamora arrivando a vincere Roland Garros dopo che era sceso oltre il numero 100 del mondo, insomma, è una storia di alti e bassi. E poi Agassi vince la maggior parte degli slam della sua vita dopo i 30 anni. È una storia veramente da film, ma prima o poi lo faranno. La più grande impresa di Agassi tennista qual è stata secondo te? Direi aver fatto lo slam di carriera, no Carlo? Cioè essere riuscito a vincere tutti e quattro, nonostante ne abbia vinti complessivamente pochi di slam, perché ne ha vinti 8, però che non sono tantissimi in senso assoluto, insomma, Federer ne ha vinti 20. Però aver fatto lo slam di carriera, cioè aver vinto tutti e quattro gli slam sulle superfici diverse, in condizioni, poi al tempo di Agassi, Carlo, le superfici erano molto diverse, cioè l'erba era ancora molto erba, era quella veloce. La terra battuta del Roland Garros era la terra quella lenta del Roland Garros, quella degli specialisti, per cui aver fatto quell'impresa lì in quegli anni, insomma, vuol dire che questo ragazzo veramente con la racchetta in mano sapeva cosa faceva. Tanto oggi mi risulta che a Casa Sky verrà celebrato... Ma questa sera abbiamo un ragazzo che... che mi sembra di conoscere. Mi onorerò di intervistare personalmente, cioè Nole Djokovic, numero uno al mondo. Hai detto niente, no? Casa Sky Sport, ore 19, ce l'abbiamo in diretta con le domande dei telespettatori e anche a questo punto direi dei radioascoltatori. Francamente... non siamo messi male, una mezz'oretta solo per noi di Djokovic, che non ha fatto questa cosa praticamente con nessuna televisione al mondo, per cui sarà veramente un gran momento di sport. Ore 19. Io sono già lì, me l'ero già segnato. Quel canale che ti ospitava la mattina in quel programma la domenica mattina, non ricordo. Non so se ricordi. No, è passato troppo tempo. Credo anche io. Senti, ma Djokovic, che tra l'altro ha fatto molto rumore con la sua posizione anti-vax, poi parzialmente corretta. Nole è un giocatore estremo per tante cose. Lui è uno molto naturista e naturalista, per cui se ne è uscito con quella cosa lì che poi ha un pochino edulcorato, diciamo così. Allora, io non la penso troppo in quel modo, però francamente ognuno è libero di pensarla come gli pare. Ma sì, assolutamente, può farlo. Io non non sono troppo d'accordo, ma... ritengo che uno come Nole abbia il sacrosanto, dopo aver dato tutto quello che ha dato allo sport, abbia anche il sacrosanto diritto di dire quello che gli pare. Sì, sempre su questo tema, Stefano, per chiudere, nei giorni scorsi abbiamo assistito invece a delle esternazioni di Rafa Nadal in stile spadafora, cioè non vedo possibile. Tra l'altro il tennis è uno degli sport, insomma, che dovrebbe ricominciare con gli allenamenti. Allora 4, il tennis è uno sport che si presta a riprendere, perché se, banalmente, sei distante dal tuo avversario, non c'è contatto fisico e tutto questo lo sappiamo, si può giocare anche con relativamente poche persone intorno al campo. Il grande problema del tennis, che è quello che ha detto Rafa, sono gli spostamenti, cioè come fai a giocare oggi a Parigi, dopodomani a New York, dopodomani a Roma, è questo il gran, cioè sposti delle persone da un posto all'altro del pianeta, che di questi tempi non mi pare proprio una grande idea. È questo il problema, non il torneo in sé da giocare. No, è chiaro, poi metti mano ai calendari, però tra il mettere mano ai calendari e quindi costruire un calendario funzionale al momento e il non giocare affatto, credo ci sia una bella differenza. Quindi insomma, se ragioniamo tutti quanti insieme in termini di ripresa dello sport e della vita con tutte le precauzioni del caso, magari bisognerà disegnare i calendari, però possiamo dirci che la stagione del tennis potrebbe svolgersi più in là nel tempo, lo sappiamo, tra spostamenti, cancellazioni eccetera eccetera, però questa è una prospettiva concreta almeno. Io credo che si possa e si potrà fare, però dovremo nel senso noi del mondo dello sport, proprio più onnicomprensivo non si potrebbe essere, dovremo essere molto bravi e rigidi a rispettare le regole, ma fa parte del mondo dello sport, cioè lo sportivo per sua natura è uno che dovrebbe essere abituato a rispettare regole. In questo momento ci sarà bisogno di non trasgredire mai a nessuna regola, da me che vado a fare un giro in bicicletta intorno al palazzo fino a Federer e Nadal quando entrano in campo. Questo è indubbio. Ciao Stefano, grazie. Grazie davvero. A te, conto di rivederti quanto prima di persona e se possibile a Skyport e intervista a Djokovic, imperdibile questa sera alle 19. Beh, noi ci fermiamo qui, ma torniamo poi domani naturalmente con tutti i convocati alle 14. Io ringrazio Anita Panizza, oggi in regia, insieme a Roberta Frisani, a Claudio Schiattone, nostro autore. Ciao a tutti, a domani. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.